Ciao a tutte e tutti e bentornate e bentornati a Uru. State ascoltando quindi Radio Wombat su wombat.noblogs.org o sul 1359 di AM. Siete tornati a Uru, quindi musica africana. Stasera ci spostiamo nel Corno d'Africa. Sì, stasera musica, suoni dalla Somalia. Può sembrare strano, ma prima della guerra civile c'era una swing in Somalia, in particolare a Mogadiscio, la capitale Hargeisa, la più grande città nel nord, attualmente fa parte del Somaliland. E quindi una swing in Somalia negli anni 70 e 80, in cui i pezzi musicali venivano neppure incisi su vinile, ma le canzoni venivano catturate tramite registratori, e sono sopravvissute, ed erano negli archivi della Fondazione Rezzi ad Argesa, circa 10.000 cassette. Molti di questi pezzi musicali incisi su cassetta sono stati, o meglio, diversi, sono stati rimasterizzati in un lavoro accurato, in cui però chiaramente si sentono i segni del tempo, il modo con cui erano stati registrati questi nastri, molto spesso messi davanti ai microfoni dei concerti dal vivo, oppure registrati dalle radio, e trasmettevano queste canzoni, in particolare Radio Argeisa, e quindi risentono del modo con cui sono stati registrati, e risentono del passare degli anni, polvere, 30 anni, 40 anni, che erano anche in questo caso raggruppati, buttati lì, insomma, ecco, in un magazzino senza neppure essere classificati, e quindi con un deterioramento del supporto inevitabile. E appunto alcune di queste canzoni, di questi brani registrati su cassetta, sono stati rimasterizzati e danno, diciamo, una panoramica della swing in Somalia, come veniva chiamata, e la swing in Mogadiscio degli anni 60, 70 e 80, con band locali che sviluppavano uno stile unico e mescolava influenze arabe e indiane. Stiamo parlando del Corno d'Africa, appunto, con il funk, e insieme al dianto, che è la musica, il suono tradizionale, diciamo, il suono delle radici musicali somale, e anche il reggae. L'altra particolarità di questi pezzi musicali, in generale della musica somala, è che la scena era dominata dalle cantanti femminili, e anche nei pezzi che vi proponiamo sono, diciamo, le protagoniste. Il primo pezzo è appunto Ninko Jamaak, che canta con questo stile arabo proprio, con una voce acuta, e trasmette, che si sente proprio, trasmette una storia che ha le sue radici nella cultura nomade del Corno d'Africa. Il primo pezzo si intitola proprio, è proprio appunto interpretato da Ninko Jamaak, si intitola Buraha Uder, c'è una traduzione, le montagne più alte. Mala mala yana waila mala ragba la go mel maraye no mala yana no mari waila mala mala yana waila balla come il marae, non marae. Notizia, c'è cioè che una decina di giorni fa, precisamente il 19 di agosto, morta a Bamako, Kaira Arbi, una delle più famose cantanti maliane. Lei era figlia di padre Tuareg e di madre Songhai e ha sempre abitato a Timbuktu. Ha cominciato a cantare fin da piccola nel momento in cui alla presidenza del Mali fu eletto Moussa Traoré, praticamente lui fece questa politica culturale dello Stato maliano per salvaguardare e sviluppare le tradizioni culturali maliane. Kaira Arbi, per questo motivo, con questa logica, lascia Timbuktu e si unisce a una compagnia artistica di Gao. Nel 92 ha intrapreso la carriera musicale, appunto, sotto il suo nome, con il suo nome, ed è stata la prima donna maliana a fare questa scelta. Quando nel 2012 i jihadisti di ritorno dalla Libia hanno invaso il nord del Mali e hanno preso possesso del Sahel, Kaira Arbi è dovuta andare in esilio e si è stabilita temporaneamente nella capitale del Mali, Bamako. E questa cosa l'avevamo già detta anche a proposito di altri artisti del nord del Mali che erano dovuti fuggire. Nella sua città natale, a Timbuktu appunto, i jihadisti minacciarono i suoi familiari e distrussero tutti i suoi strumenti. Ma 3 anni dopo, nel 2015, poté tornare nella sua città, perché dopo che appunto i jihadisti sono stati mandati via da Timbuktu. Lei scriveva e cantava nelle lingue indigene della sua regione, i Songhai, Tamashek, Bambara, in arabo. La sua voce era veramente particolare, robusta ma graffiata, era una delle sue caratteristiche, e gli argomenti che ha affrontato spesso nelle sue canzoni naturalmente sono i diritti delle donne, all'autonomia, all'istruzione, alla realizzazione, ma anche contro le mutilazioni genitali femminili. E musicalmente ha sempre usato una strumentazione tradizionale, per esempio usando longoni, njarka, aggiungendo però a questi strumenti tradizionali anche una strumentazione elettrica. E ci sentiamo il secondo pezzo di questi canzoni rimasterizzate. Ricordiamo ancora una volta che sono rimasterizzate, ma non da vinili o da CD, sono rimasterizzate prendendo il suono da questi nastri che appunto molto spesso venivano messi davanti a una radio oppure registrati durante concerti, quindi già alla radice, ecco, la qualità non è che sia particolarmente eccezionale, per usare un eufemismo. Il secondo pezzo è di Ivo Nuura, si intitola Adio Baki Gabai, Se l'artista ti lascia giù. E c'è in questo brano si distingue una fisarmonia, una sezione di ottoni e imperniate su un rhythm and blues sostanzialmente. Il titolo di questa canzone riecheggia un commento di questo Nuura, un commento di Ibo Nuura, contrario all'imposizione del proprio dal tramonto all'alba del 1987, secondo il quale gli artisti avrebbero dovuto lasciar cadere il paese e non ispirandosi a una cultura di resistenza, mentre invece appunto Ibo Nuura protesta contro questo coprifuoco, incide questo pezzo che tradotto più o meno significa se l'artista ti lascia giù, e quindi si batte contro questa catastrofe che portò catastrofe da un punto di vista artista e portò a cercare di chiudere i teatri, gli studi di registrazione. Punto. Ibo Nuura, Addio Baki Gabai. وأنا أعرف سمارية بطلون بارا وطلون بارا وطلون بارا أوكي يا موسيقى أنا وحسن عليك بغدادي I'm Abbiamo parlato il massacro degli Herero e dei Nama nell'attuale Namibia fu il primo genocidio del Novecento assieme a quello del Congo. Naturalmente quello del Congo il responsabile era re Leopoldo II del Belgio, proprietario proprio personale del Congo. Per quello degli Herero e dei Nama invece fu la Germania. Questi giorni c'è stata una sorta di riparazione, infatti ossa e teschi di circa 30 vittime delle stragi di comunità, delle comunità Nama e Herero commesse un secolo fa dall'esercito tedesco nell'allora Africa del Sud-Ovest sono state consegnate a discendenti di queste comunità nel corso di una cerimonia a Berlino. I resti erano giunti in Germania ai primi del Novecento per esperimenti che avrebbero dovuto dimostrare la superiorità razziale dei bianchi europei. Consegne di teschi ed ossa si erano già tenute nel 2011 e nel 2014, prima però che il governo tedesco definisse genocidio i massacri compiuti per reprimere le rivolte anticoloniali a partire dal 1904. Nell'arco di pochi anni gli Herero e i Nama uccisi furono almeno 100.000. La Germania si è sempre rifiutata di versare risarcimenti. Fu una strage del colonialismo avvenuta quando la Germania aspirava ad avere il proprio impero come stavano facendo Francia e Gran Bretagna. C'è chi dice che quelle stragi furono la prova generale dell'Olocausto. Nel deserto namibiano, infatti, i tedeschi sterminarono oltre l'80% degli Herero e il 50% dei Nama. Furono costruiti campi di concentramento e di sterminio. Furono condotti esperimenti medici mostruosi su esseri umani. Già allora i medici tedeschi stavano lavorando sulla dottrina della razza pura. Ecco perché molti teschi furono spediti in Germania. Pare che tra i medici che furono educati a compiere questi esperimenti c'era un giovanissimo Mengele, e non sorprende che il primo governatore tedesco della colonia fosse il padre di Hermann Göring. Una class action per ottenere riparazioni dalla Germania è stata avviata a New York dai rappresentanti della comunità della Namibia, paese divenuto indipendente, come abbiamo detto due puntate fa, la penultima puntata in cui abbiamo parlato proprio di questo paese, appunto indipendente nel 90 dopo la fine del dominio tedesco e poi dell'apartheid sudafricano. E ci sentiamo un altro pezzo musicale della Swing in Somalia, della Swing in Mogadiscio degli anni 70. È un pezzo in questo caso più affine al primo che abbiamo sentito, Ninko Jamak, anche in questo caso una donna, Amina Kamari. Il pezzo si intitola Ragba Nakab, io noi stesso, e parla delle relazioni tra uomo e donna. Oh, e siete sempre all'ascolto di Uru. Sono le musiche e notizie dal continente africano in onda su Radio Wombat in diretta tutti i venerdì alle 21.30, replica la domenica alle 23 e lunedì alle 8.30, lunedì mattina. Ricordiamo anche, la potete riascoltare, oltre che nelle repliche, potete ascoltare tutte le puntate di Uru, al momento sono 60, andando alla sezione podcast di Radio Wombat sul sito della radio wombat.noblogs.org. c'è una sezione podcast in cui ci sono i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat e chiaramente anche quelli di Uru. Ci cliccate sopra sull'iconcina e vi appare tutto l'elenco dei podcast. Ricordiamo anche Uru ha un proprio profilo Twitter in cui diamo notizie delle trasmissioni, ma anche notizie dal continente africano, uru_rw, appunto per Radio Wombat. E ricordiamo anche che i social di Radio Wombat, in particolare l'account Twitter Radio Wombat Fi, comunque digitando Radio Wombat lo trovate, e potete comunicare con la radio, suggerimenti, critiche, invettive, complimenti, scrivendo a postawombat@insiberia.net. Vogliamo anche ricordare che settembre la trasmissione va in vacanza, ci saranno quindi un mese in cui non ci saranno le trasmissioni in diretta, e quindi potete comunque ascoltare le precedenti trasmissioni, come detto precedentemente, andando alla sezione podcast. Passiamo adesso ad un pezzo dove si sente le melodie di suoni indiani con tastiera e tromba contrapposte a organo e ottone. Quindi ascoltiamo Sharaf Band e Xamo Iran. Il pezzo si intitola Kaded Badana Naftiyani, e cioè la mia vita è piena di tribolazioni. Ascoltiamo questo pezzo. Oh, Non c'è appunto, non c'è soltanto la Mogadiscio Swing, la Swing Mogadiscio degli anni 70-80, c'è anche la Mogadiscio attuale che cerca di risollevarsi, seppur veramente, veramente affaticata, dopo 25 anni di guerra, guerra civile, che ha accumulato macerie e desolazioni. Mogadiscio era tra le capitali più belle dell'Africa e appunto, come detto pochissimo fa, sta cercando di rinascere, ma in agguato, anzi neppure in agguato, proprio prepotentemente la speculazione edilizia sta per cancellarne la memoria storica. C'è un brano tratto da un libro di Ibn Battut, il Marco Polo arabo, diciamo così, per farla un po' schematica, che tratteggia Mogadiscio negli anni nel 1400, e giungemmo a Mogadiscio, città vastissima. I suoi abitanti sono dei ricchi mercanti, possiedono una quantità di cammelli e sgozzano ogni giorno a centinaia, e grandi quantità di ovini. Si fabbricano a Mogadiscio le stoffe senza quali e vanno sotto il suo nome, e si esportano lì, in Egitto e altrove. Era appunto il 1331, e così si esprimeva il Battuta, della città abitata dai Banata, ai Riri. Queste sono il nome degli abitanti storici di Mogadiscio, e lo citiamo perché significa il popolo multietnico, proprio perché, essendo proprio lì sul corno d'Africa, la città era un incrocio inevitabile da parte di chi viaggiava nella regione, e appunto i suoi abitanti erano un melting pot costituito da abitanti dello Yemen, arabi, etiopi ed altri. E questo, tra l'altro, si sente anche nei pezzi musicali che vi abbiamo posto e che vi proporremo anche successivamente. E appunto questa città era, e lo era fino agli anni 60-70, una città vivace, curata, una trentina di moschee, un pavimento, portali e mirab finemente decorate, ma non erano solo gli edifici religiosi, diciamo, quello che dava il senso della Mogadiscio storia, della Mogadiscio monumentale, ma tutto il tessuto urbanistico, con le vie strette disegnate per creare ambienti ombreggiati. Ma ora che si sta tentando una ricostruzione di Mogadiscio, tutto ciò rischia di scomparire. E la Turchia, ha assicurato alcuni lavori di recupero, ma sono lavori di facciata. In realtà la Turchia, così come abbiamo l'abbiamo menzionata alcune trasmissioni fa per la ricostruzione del porto di Djibouti, così a Mogadiscio sta rifacendo anche in questo caso il porto della capitale per interessi strategici, geostrategici, militari ed economici. Quindi sono lavori di restauro semplicemente di facciata, tant'è che non ci sono stati interventi di archeologi e i subappalti sono stati concessi così, non a chi era o a chi è abile, diciamo, a fare questo lavoro, ma chi voleva e vuole tuttora speculare rispetto alla ricostruzione della Mogadiscio storica. Quindi alle incurie, alle distruzioni della guerra si aggiungono questi interventi, sono dei veri stravolgimenti, tant'è che uno degli edifici più importanti di Mogadiscio attualmente è diventato uno sfavillante centro commerciale, in questo caso costruito, ricostruito, svuotato al suo interno da un'impresa indiana basata in Tanzania, in cui tra l'altro c'è questo anacronismo, diciamo, per Mogadiscio, per la Somalia, in cui c'è la prima scala mobile, la prima ed unica scala mobile di tutta la Somalia. E quindi questa voglia di ricostruzione dal punto di vista architettonico, dal punto di vista dei danni agli edifici, fa danni quanto la guerra. Sostanzialmente si tratta anche in questo caso, seppur chiaramente non nelle forme e nei modi come le città europee, ma una gentrificazione in cui vediamo che i ricchi signori di Mogadiscio, i ricchi signori di altre nazionalità, ma che appunto si vogliono stabilire a Mogadiscio, acquistano edifici storici nel centro città per poi trasformarli in suite di lusso, in mega alberghi, nelle onnipresenti in tutto il mondo centri benessere e via dicendo. C'è un signore, un architetto che si chiama Aziz Şikey, che tra l'altro ha studiato in Italia, perché appunto l'Italia era la potenza coloniale che ha invaso la Somalia e che nello stesso momento ha imposto la lingua e che conseguentemente ha visto alcuni elementi studenti somali venire in Italia a completare gli studi. Questo signore, questo ingegnere Aziz Şikey, sostiene che l'Italia, se non altro come momento di riparazione dai danni provocati dall'invasione, dalla dominazione coloniale, e che nello stesso momento comunque ha delle buone scuole di restauro da cui escono architetti, urbanisti e via dicendo, dovrebbe intervenire da questo punto di vista. Ricordiamo che il fascismo ha demolito i due nuclei storici principali della città, Shingani, uno, l'altro è Amar Veyne, e l'autorità coloniale appunto abbatterono un'ampia area di questi due distretti per aprirvi queste strade che tutti dicono no, gli italiani hanno portato le strade, in realtà per portarci queste strade che sostanzialmente servivano a trasportare più velocemente le truppe e le merci, le persone assolutamente no, perché non avevano i mezzi di trasporto, quei mezzi di trasporto ci avevano, non avevano bisogno delle strade asfaltate, ha abbattuto questi due nuclei storici della città, e in particolare un cimitero di Bana Adiri, il secondo per importanza della città, che era un cimitero storico. È una profanazione, una perdita irrimediabile di, tra l'altro, testimonianze lapilee con iscrizioni di rilevanza storiografica. Quindi appunto Mogadiscio sta lentamente, nonostante cruenti attentati, uno tra l'altro a ottobre dell'anno scorso con 500 morti, comunque sta tentando di risollevarsi, sta tentando di ricostruire, ma nello stesso momento la ricostruzione è preda dei soliti pescicani, dei signori del mattone, come in tutto il mondo. Una sorta di gentrificazione fa in modo che questa ricostruzione veda gli edifici storici come mezzi di profitto e non come testimonianza storica, culturale e sociale degli abitanti. passiamo al prossimo pezzo. Il titolo è Duruf Ma Laigu Dide, cioè respinto a causa delle mie circostanze, della Durdur Band, che adatta una canzone tradizionale degli abitanti proprio originali di Mogadiscio, con una cadenza vagamente latina e un arrangiamento di ottoni e chitarre. Quindi Durdur Band, Duruf Ma Laigu Die. Sì, ci spostiamo per una notizia in Madagascar, in un piccolo villaggio, Ambakivao. Non ha importanza perché un gruppo di signore anziane, nonne, hanno dato un via a una rivoluzione energetica, diciamo così. Perché? Perché non avendo accesso all'elettricità, la vita in questo villaggio Ambakivao in Madagascar era buia. E un gruppo di nonne ha deciso di cambiare la situazione, portando a luce la propria comunità e diventando le prime ingegnere solari del villaggio. Con l'aiuto del World Wildlife Fund, in questo caso, hanno scambiato le lampade a petrolio con i pannelli solari e portato con successo l'elettricità a più di 200 famiglie nel loro villaggio. E ora il loro esempio è stato preso come punto di riferimento da altri villaggi della regione e diciamo si sta ampliando questo movimento che vede nell'energia solare un fattore appunto di crescita, di sviluppo sociale dei villaggi. C'è anche un video in internet in cui si vede proprio in pochi minuti chiaramente la storia di questo progetto, The Grandmas Leading Africa's Solar Revolution. Lo potete trovare recitando questa stringa, questa frase. Si vedono appunto queste signore, queste nonnette che iniziano a costruire questi pannelli solari, poi vengono impiantati sulle capanne e poi effettivamente c'è la luce dei villaggi, serve non soltanto per un punto di vista sociale, per continuare a parlare, a vedersi, a suonare, a ballare, ma anche, e questa è una cosa che viene sottolineata nel video, a permettere ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani di studiare dopo aver finito la scuola, ecco, di studiare anche a casa. Il prossimo pezzo è della Sharero Band insieme a Fadumo Hassin, che è una delle cantanti più famose in Somalia, e il titolo è Quais Iyo Laila, che sarebbe Romeo e Giulietta. Questo qui, come abbiamo detto, nessuno dei brani che vi stiamo facendo ascoltare è stato registrato in uno studio di registrazione. In questo caso sappiamo che praticamente questa registrazione è stata presa da un fan, da uno che era a un concerto di questa band con Fadumo Hassim, che ha posizionato il registratore sul palco. Questa canzone è particolare perché praticamente ha questo incedere che sembra quasi giamaicano, ma in realtà è il ritmo danto che viene dalla regione di Ogaden in Etiopia. Infatti Ogaden è etiope, ma è una delle 5 regioni culturalmente somale che i leader della Somalia appunto speravano di riunificare all'indipendenza del 1960. Questa aspirazione mai realizzata è simboleggiata nella stella a 5 punte della bandiera somala. Quindi ascoltiamo questo pezzo. Another day. Questo era l'ultimo pezzo di questa trasmissione. Vi ricordiamo che Uru va in vacanza il mese di settembre, quindi vi aspettiamo a ottobre per iniziare la nuova stagione. Ciao a tutte e tutte, alla prossima. Ciao a tutte e tutti, e comunque ascoltate sempre in continuazione, in diretta, in differita, su podcast, su in AM, in streaming Radio Wombat. Per ascoltare la stima è il sito wombatonobox.org. In AM tra pochissimo stiamo facendo le ultime prove, 1359. Ciao a tutti e tutti.